Buon pomeriggio Senita e ben trovata ai microfoni di Radio Città Fujiko. Eccoci qua, ciao. Buon pomeriggio. Il 22 giugno è uscito il tuo nuovo singolo, Brief. Ti va di raccontarci com'è nato e soprattutto di cosa parla? Allora, giusto, Brief è il secondo singolo di questo viaggio che è cominciato all'inizio dell'anno, partito con Freaky, che era la canzone che dovevo portare a Eurovision del 2020, rappresentando San Marino, che ahimè è stato cancellato come diversi eventi causa Covid, come si può... Come ci ricordiamo tutti, e durante il lockdown, questi due mesi di silenzio forzato, mi sono organizzata con il mio produttore, che è stato poi lo stesso quale ho scritto Freaky, per pensare a una canzone nuova, un secondo singolo, che potesse un po' rappresentare tutto il periodo che abbiamo vissuto. E da qui è nata Tris, ovvero questa esigenza, questa urgenza di respirare, come dice la canzone, dopo questo angosciante periodo, cioè questo desiderio proprio di esplodere dopo questo silenzio forzato. Quindi con Gigi Fazio ci siamo messi a quattro mani a scrivere questo brano, e con Luca Tommasini, che è il direttore creativo di tutto questo progetto che è partito già diversi mesi fa, abbiamo poi realizzato questo video che per me è davvero un film, un video molto bello, molto rappresentativo, dove io sono glitterata di scuro e quindi rappresento tra virgolette il male, la malattia, la crudeltà, e poi me ne libero, mi pulisco, mi depuro e torno a respirare con diversi messaggi che possono essere l'acqua, il cavallo, che vengono rappresentati in questo video. Adesso mi sto divertendo tantissimo perché fortunatamente il video piace, la canzone anche, abbiamo già raggiunto più di 2 milioni di visualizzazioni su YouTube, e poi sì, ci saranno tante altre novità perché continueremo con la promozione, ahimè solo via web, perché i concerti sono bannati. Ecco, tu dicevi che Brief arriva dopo il successo internazionale di Freaky e accennavi all'Eurovision, un Eurovision che è stato cancellato causa Covid. Ti ritroveremo sullo stesso palco anche il prossimo anno? Quindi è ufficiale. È ufficiale, perché dopo la cancellazione ufficiale di Eurovision 2020, che è stata annunciata a marzo, quindi dopo l'inizio del lockdown, ho deciso di riconvocarmi e di ripropormi per l'anno prossimo. Quindi io ho passato un momento di grande dispiacere, grande amarezza, al di là di tutto quello che stava succedendo, appunto, da questo grosso disagio del coronavirus, in aggiunta anche alla cancellazione dell'evento, perché io tutto mi aspettavo tranne la cancellazione, pensavo a un posticipo, speravo così a un ritardo, e invece è stato giusto così. Però sono stata contenta perché sono stata riconvocata. Non potrò portare i Freaky perché dal regolamento dovrò portare un'altra canzone, però dai, sono contenta perché mi è stata data comunque un'altra possibilità. E quindi sì, ci rivediamo quest'altro anno. Hai in mente già qualche idea sul pezzo da portare? Sicuramente c'è un fil rouge che lega Freaky, Breeze, il prossimo singolo sul quale stiamo già lavorando, che dovrebbe essere una ballad, perché mi piacerebbe anche abbassare un pochino, come dire, i toni, invece di essere sempre così pompata e grintosa, mi piacerebbe riuscire ad essere anche un pochino più intima. E poi sì, stiamo lavorando su questo nuovo brano che porterà Eurovision, che è sempre Luca Tommasini, che fortunatamente ha deciso di partecipare nuovamente al progetto di Eurovision, nonostante mille impegni. Infatti mi sento molto grata e privilegiata per questa cosa, e quindi sicuramente ci saranno tante scenografie, tanti colori, perché la peculiarità di tutte queste canzoni è che c'è tanta libertà, tanto desiderio di parlare, di comunicare, tutto in un mood molto positivo e molto energico a Eurovision 2021. Ecco, aspettando questo Eurovision, tu hai lanciato sui social il 17 giugno la Freaky Dance, proprio aiutata in qualche modo da Luca Tommasini. Volevo chiederti com'è nata la collaborazione con Luca e invece com'è nata l'idea di lanciare questa challenge, che poi ha visto protagonisti anche personalità del mondo dello spettacolo, oltre ai tuoi fan. Ma Luca, la fortuna di lavorare con Luca è che riesce a tirare fuori il meglio di te. Cioè, io mi sento un artista a 360 gradi, ho fatto tanto teatro, ho fatto anche televisione, però nasco principalmente come cantante. Poi con Luca ho riscoperto il ballare, cioè il divertirmi sul palco. Sono già caratterialmente una persona molto magnetica, molto estrosa, però sai, quando sei guidata da un pigmalione come Luca Tommasini, conosciuto nel primo video che ho fatto, che è stato Dark Room, quindi parliamo dell'anno scorso, abbiamo deciso di lavorare anche più a 360 gradi per quello che riguarda l'artista, proprio a tutto tondo. È l'esempio, tra virgolette, americano, no? Cioè una persona che si possa presentare sul palco e possa dare, oltre alla voce, anche un po' di carisma, un po' di comunicazione, appunto, attraverso l'arte. Quindi quando abbiamo pensato a Freaky, la canzone, avevamo pensato anche a un'esibizione epica, live di Eurovision. Cancellato il programma, cancellato l'evento, non ci siamo abbattuti, abbiamo deciso durante il lockdown di creare una mini challenge attraverso piccoli passi, a un mosaico di piccoli passi iconici della danza. Quindi sono io che ballo la Macarena, sono io che ballo Pio Sinesi, sono io che ballo i patussi, cose così, sotto la canzone di Freaky. E quindi è nata la Freaky Dance. Ed è partita la challenge. Ed effettivamente ha funzionato, perché sarà che c'è stato il lockdown e quindi la gente era costretta e forzata a stare in casa e a usare i social. Sarà che ovviamente dava minimo di leggerezza in questo periodo un po' di merda. Sarà che la gente aveva voglia di divertirsi e ha funzionato. Ed è stato un passaparola molto molto bello, perché è stato divertente. Anche lì sono arrivata a milioni di visualizzazioni, addirittura quasi più di 3 milioni. Hanno partecipato persone che non mi aspettavo partecipassero a questa Freaky Dance. E quindi sì, è stata sicuramente un'ottima alternativa di speranza, insomma, di voglia di positivo. Quindi sì, son convinta che anche per il prossimo Eurovision riuscirà a farci qualcosa di folle, qualcosa di freaky. Qualcosa, insomma, nel tuo stile. Questo è il tuo stile. Hai una grinta incredibile, una voglia di ballare che trasmette anche a chi ti ascolta. Sì, sì, grazie. No, infatti sono molto... è quello l'obiettivo. Infatti se lo leggi, se non riesci a carpirlo, io ho già fatto il mio dovere, se volete. Cut between my mind and heart. I see the world fall apart. I'm like a feather in the wind, in an aimlessly spin, but still I can breathe. Parlavi di Dark Room, che è uno dei pochi pezzi in cui scegli l'italiano, mentre per il resto trionfa l'inglese. Volevo chiederti se è un approccio istintivo oppure se è una scelta oculata. No, io avevo voglia di tornare a cantare in italiano, e quando sono tornata in Italia dopo varie esperienze all'estero ho proposto a Gigi Fazio di scrivere qualcosa in italiano ed è nata Dark Room. Ma qui è una Dark Room 2.0, questa esigenza di incontrarsi nell'era del 2020, no? Quindi attraverso le app, attraverso tutti questi incontri segreti. Poi è uscita un'altra canzone che si chiama Un bel niente, sempre in italiano e sempre con Gigi Fazio, e poi è arrivata la chiamata di Eurovision di San Marino. Quindi è arrivato anche abbastanza naturale proporre un repertorio più internazionale, però non è detto che ti torni a cantare in italiano, che comunque l'album che poi un giorno uscirà probabilmente dopo maggio 2021 possa contenere diverse canzoni in diverse lingue. Anche perché il filo rosso che lega tutte queste canzoni deve essere sempre la grinta, il desiderio, la passione, l'impegno. Che sia cantato in inglese, in italiano, in turco e in russo, se arriva il messaggio di positività e di voglia, secondo me vince come. Poi noi abbiamo fatto ovviamente le traduzioni sia di Dark Room che di Un bel niente, uh-huh. È diventata Dark Room e Obsessed, per ora continuerò con l'internazionale. Poi sicuramente ci saranno anche altre versioni in italiano. Anzi. Ecco, soprattutto forse c'è anche un desiderio di poter arrivare a più persone possibile. L'inglese ti dà questa possibilità qui. È vero. È più raggiungibile. Poi sai, ripartecipando a Eurovision 2021, che è uno degli eventi più visti dopo il Super Bowl, quindi da tutto il mondo, conviene cantare in inglese. Invece, oltre all'Eurovision, che ti impegnerà nel prossimo 2021, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Ma adesso ci stiamo concentrando sulla promozione di Brizza. Dopodiché fra qualche giorno uscirà una piccola pillola, io la chiamo di quella che poi sarà la collezione artistica, perché con Luca abbiamo pensato a questo format, questo viaggio che mi accompagnerà fino a giugno del 2021, dove ogni mese regalerò ai miei follower su YouTube, quindi sarà un viaggio virtuale, una versione personalissima, quindi in stile freaky, di una canzone delle passate edizioni di Eurovision. Ho fatto una selezione con il mio team, quindi ho scelto le 12 canzoni, perché sarà davvero una sorta di calendario. Ogni mese uscirà una canzone, la cover, riarrangiata in un video, ovviamente supervisionato da Luca, e regaleremo a tutti i follower, specificatamente quelli di Eurovision, che sono anche quelli più fedeli, quelli più, come dire, presenti. Mm-hmm. E questo viaggio mi accompagnerà fino alla mia esibizione live di maggio del 2021 a Rotterdam. E poi sicuramente l'uscita del mio terzo singolo fine anno e il lavoro è focus e concentrato su quello che poi sarà il brano per Eurovision. Sì, sempre tanta promozione e tanto lavoro via web. In attesa di tutto questo, ti faccio anche i miei complimenti per essere così attiva in questo periodo in cui il mondo musicale è probabilmente più penalizzato. No, infatti, tra l'altro questa cosa mi fa anche un po' incazzare, perché sono veramente l'ultima, adesso sembra un discorso vittimistico, però è realista, siamo veramente l'ultima ruota del carro, soprattutto periodo, però vedo la luce in fondo al tunnel, quindi non mi abbatto e faccio quello che riesco, quello che posso, perché fortunatamente abbiamo anche il privilegio di avere tutti questi veicoli internet web, che non sono la stessa cosa, perché io desidererei fare tanti live, però per ora non è possibile. Esatto, questa luce di cui parlavi la inseguiamo, continuiamo ad inseguirla sperando che arrivi il più presto possibile davvero vicina. Io nel frattempo ti ringrazio per essere stata qui con noi, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per tutto, soprattutto per l'Eurovision 2021, e spero di ritrovarti prestissimo qui ai microfoni di Radio Città Fujiko. Al più presto, è una minaccia quasi. Grazie, grazie mille. A presto. A presto, ciao a tutti. So when you touch me I feel your love all over my body. You make me feel like I'm spinning from the way that you want me. You want me. Walking.